Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis. Di economia all'idrogeno sentiamo ormai discutere da anni. Lo scenario è più o meno questo. In un mondo in cui l'energia sarà fornita ampiamente da fonti rinnovabili come sole e vento, l'elettricità in eccesso, prodotta per esempio nelle ore centrali della giornata in cui il sole splende, verrà usata per produrre idrogeno dall'acqua. Idrogeno che potrà poi essere utilizzato nei processi industriali, nei trasporti, oppure riconvertito in elettricità da immettere in rete quando sole e vento scarseggiano. Ma questo scenario appare per il momento molto lontano. I 71 milioni di tonnellate di idrogeno prodotte ogni anno nel mondo sono tutti di origine fossile, si parla di idrogeno grigio, mentre il costo attuale di produzione dell'idrogeno verde, cioè ricavato da fonti rinnovabili, è intorno ai 10 euro al chilogrammo contro l'euro, il singolo euro appunto dell'idrogeno grigio. Eppure le previsioni per il 2030 disegnano uno scenario molto diverso, con l'idrogeno in grande ascesa e guardando ancora un po' più in là, la Commissione europea prevede che l'idrogeno coprirà nel 2050 il 14% della domanda europea di energia. Ne parliamo con Antonino Aricò, direttore dell'Istituto di Tecnologie Avanzate per l'Energia del CNR e rappresentante italiano presso la Commissione Europea per l'FCHJU, la Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking, un'iniziativa per lo sviluppo dell'idrogeno. Benvenuto Aricò. Buonasera. Allora, senta, quali sono le previsioni dell'Unione Europea in merito al ruolo che l'idrogeno giocherà nel 2030, tra 10 anni? L'idrogeno è stato individuato come uno dei vettori di energia più promettenti per il 2030. Si parla di 10 milioni di tonnellate di idrogeno verde da produrre annualmente per il 2030, con una potenza installata in Europa almeno di 40 gigawatt. Ecco, contro praticamente lo zero attuale, per capirsi. Sì, attualmente l'idrogeno verde è prodotto in bassissima quantità, l'idrogeno invece ottenuto dal reforming di gas naturale è largamente utilizzato nell'industria. Senta, quali sono i colli di bottiglia da rimuovere perché questa economia all'idrogeno possa effettivamente dispiegarsi, diciamo così? Vi sono due aspetti fondamentali da considerare per ridurre il costo dell'idrogeno. Intanto i costi capitali degli impianti di elettrolisi. L'idrogeno verde si ottiene dall'elettricità rinnovabile attraverso l'elettrolisi dell'acqua. I sistemi di elettrolisi sono attualmente caratterizzati dall'uso di materiali costosi, ma nello stesso tempo hanno caratteristiche di dinamicità che vanno migliorate per poter essere utilizzati in un contesto di bilanciamento di rete. Questo è un primo aspetto, quindi ridurre i costi capitali. Il secondo aspetto è ridurre il costo di elettricità da fonti rinnovabili, ma questo avverrà sicuramente nei prossimi anni, quando le fonti rinnovabili diventeranno sempre più importanti. Quando diventeranno dominanti, a un certo punto, tra qualche anno, a mezzogiorno, non sapremo più dove metterla l'energia elettrica e probabilmente a quel punto costerà in quelle ore molto molto poco. Addirittura qualcuno dice che avrà costi negativi. Quale pensa che sarà la linea di penetrazione dell'idrogeno verde nel mercato? Insomma, quali saranno i primi settori nei quali lei immagina che in modo consistente l'idrogeno verde avrà un ruolo? L'idrogeno sicuramente può coprire un'ampia filiera, può coprire tantissime applicazioni, ma dal mio punto di vista l'applicazione, il premium market dell'idrogeno sarà sicuramente la mobilità sostenibile, intanto perché consentirà una decarbonizzazione e nello stesso tempo diminuirà l'impatto delle emissioni inquinanti a livello locale. Basta pensare ai veicoli pesanti, ai camion, anche ai treni. i treni che utilizzano delle tratte ferroviarie non elettrificate. In questo caso l'idrogeno, con la sua elevata densità di energia, ha grandi vantaggi rispetto alle batterie e, per esempio, può sostituire i treni a diesel. In Europa circa il 30% delle linee non sono elettrificate, mentre per ciò che riguarda i veicoli pesanti può sicuramente facilitare un rifornimento rapido, veloce, evitare emissioni. Certo, fare un pieno di elettricità con le batterie, ecco qualcosa. Non è soltanto il pieno, ma anche il peso delle batterie. Certo. Le batterie hanno grandi vantaggi per le city car, però quando si parla di veicoli pesanti, l'idrogeno non ha competito. Non ha competito. L'opzione migliore per decarbonizzare. Senta, oggi come oggi, quali sono i paesi con i programmi più avanzati e a che punto siamo invece in Italia? In realtà, per ciò che riguarda la produzione di idrogeno verde da elettrolisi, mediante processi di elettrolisi, l'Europa copre un ruolo di primo piano. In particolare la Germania ha un programma nazionale sull'idrogeno abbastanza avanzato, ma vorrei dire anche la Francia e anche il Regno Unito. Per ciò che riguarda i veicoli a fuel cells, cioè a idrogeno, in questo caso i paesi asiatici come il Giappone e la Corea sicuramente hanno già avviato un programma molto molto importante e vi sono veicoli come la Toyota Mirai, come la Hyundai Nexo, che sono già stati immessi nel mercato. La Cina, per ciò che riguarda la componentistica, può avere grande rilevanza. In Italia abbiamo in realtà aziende che producono componenti per la filiera dell'idrogeno. Abbiamo delle aziende nazionali che producono elettrodi, producono altri sistemi e quindi è importante incentivare questo percorso a livello italiano, ma esistono le competenze, esistono le aziende. Va bene, grazie ad Antonino Aricò. E grazie, buonasera. Bene, cari ascoltatori, ci fermiamo qui, appuntamento a domani. Enel vi ha presentato Smart City.